Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Per ciò che riguarda le misure straordinarie di politica monetaria, facendo seguito alle nostre decisioni del 22 gennaio scorso, il 9 marzo inizieranno gli acquisti di titoli di Stato della BCE. BCE al via gli acquisti dei titoli dell'Eurozona, i primi ad essere acquistati quelli tedeschi, poi italiani, francesi e belgi. Serve a rilanciare l'economia dell'Eurozona iniettando 60 miliardi di euro al mese fino a settembre dell'anno prossimo. Tagliata fuori per ora la Grecia. La Banca Centrale Europea non si assumerà i rischi di acquisire e acquistare i titoli ellenici. Professor Lorenzo Binismaghi, ex membro del board della BCE. Ecco, ci sono delle analogie tra la politica della Federal Reserve americana che ha rilanciato l'economia e quella della BCE? Beh, la BCE ieri ha cominciato la politica del quantitative easing come la Fed ha fatto però 5 anni fa, forse con un po' di ritardo. Quindi siamo un po' in ritardo? Siamo un po' in ritardo perché l'Europa è un po' più complicata. Gli Stati Uniti comprano un solo titolo di Stato, che è quello dello Stato americano. Qui devono comprare 18, anzi 19 titoli di Stato, anche se per ora la Grecia e il Cipro non lo comprano. Certo. E c'è un po' e questa complicato. È la differenza principale? Sì, poi gli altri aspetti sono che naturalmente l'economia americana è più flessibile, ha avuto risposte più immediate. In Europa di nuovo abbiamo avuto la crisi del debito sovrano, abbiamo avuto il problema greco, insomma l'Europa di nuovo è più complicata. Ecco, professor Binismaghi, ma quali saranno gli effetti sull'economia reale dell'intervento delle BCE? Dunque, alcuni effetti li stiamo vedendo, perché innanzitutto con tassi più bassi gli investitori andranno più verso gli Stati Uniti, verso i paesi emergenti e meno verso l'Europa. Questo fa calare l'euro. L'euro diventa più competitivo, l'export aumenterà e questo dovrebbe stimolare l'occupazione e la crescita. E questo si sentirà abbastanza in fretta o ci vuole molto tempo? No, si sentirà già abbastanza in fretta. Alcuni imprenditori che, insomma, con cui si sono in contatto già mi dicono che i loro ordinativi sono aumentati, ci sono già dei dati che sono interessanti. Ecco, senta invece quello che dice il professor Paolo Savona a proposito del quantitative easing, molto, molto duro. Lei ha detto che l'entusiasmo con cui è stato accolto il quantitative easing è sconfortante. Perché è sconfortante? Perché in effetti marca una ulteriore rottura dell'unità politica europea, scaricando i rischi sulle banche centrali, le quali, qualora lo Stato non fosse in grado di affrontare il proprio debito, si troverebbero in difficoltà esse stesse. Quindi è stata creata un circolo vizioso dal quale non è facile uscire, o non sarà facile uscire in futuro. È un'ulteriore bardatura, per cui io ritengo, come cittadino italiano, di essere sconfortato da ciò che si sta facendo. Non si finanzia lo sviluppo e l'occupazione, si creano condizioni di difficoltà operative alle banche e alle imprese e non si ha una visione politica di lungo periodo per portare il paese fuori dalle attuali situazioni. Ecco, sbaglia il professor Savona, professor Binismaghi? Forse è un pessimista cronico, nel senso che l'alternativa quale sarebbe stata? Tassi di interesse più alti, un euro più forte. Insomma, l'economia europea ha bisogno di uno stimolo di natura anche monetaria, perché l'inflazione è bassissima. Dunque noi dobbiamo, come dire, immettere liquidità, indurre gli operatori, gli investitori a passare poi dalla liquidità agli investimenti. E quindi le critiche le sembrano solo date da un pessimismo proprio di impostazione culturale, diciamo? Ma insomma, negli Stati Uniti l'hanno fatto 5 anni fa e dopo è andata bene, meglio, diciamo. Insomma, questo non vuol dire che non è senza rischi, però a questo punto bisogna che le istituzioni prendano dei rischi. Ma quali sono i rischi secondo lei allora invece? Ma i rischi è che la banca centrale si riempie il bilancio di titoli di Stato. Uno dei rischi è che uno di questi stati magari debba ristrutturare il debito e fallisca. Questo comporta delle perdite che poi verranno pagate dai contribuenti. Il secondo rischio è quello che temono i tedeschi e che dicono che con questi tassi così bassi i governi non faranno più nulla, non faranno la loro parte. Questo l'ha menzionato anche Draghi. cioè si toglie l'incentivo a fare le riforme. E questa è la risposta, poi sta a noi, sta agli italiani, ai greci, ai portoghesi, a quelli che hanno difficoltà a vedere se effettivamente le riforme continueranno oppure no. Ecco, a proposito di riforme, la BCE sembra durissima nei confronti della Grecia. È così? C'è un rischio reale di uscita dall'euro della Grecia? La Grecia deve decidere se vuol stare nell'euro, deve portare la sua economia a un livello di modernizzazione paragonabile agli altri paesi. Non è necessario farlo in un anno, ma ci vuole un programma di aggiustamento concordato, anche perché in cambio i contribuenti degli altri paesi danno dei soldi alla Grecia. Ecco, e questo vuol dire appunto fare un accordo, sedersi intorno a un tavolo e discutere insieme un programma di risanamento, mentre il governo Tsipras ha detto io non accetto di discutere, poi alla fine ha cambiato idea, però tutto questo crea grande incertezza, grande volatilità. Ecco, l'Eurogruppo però ha detto alla Grecia basta perdere tempo, perché sta perdendo tempo la Grecia. La Grecia ha detto non accetto più il programma precedente, datemi più tempo, altri 3-4 mesi per presentare un programma. Il rischio qual è? Il rischio è che i greci stessi perdano fiducia nel loro governo e vadano a ritirare depositi presso le loro banche. E man mano che i soldi escano dalle banche c'è un rischio di collasso del sistema finanziario, c'è incertezza nel paese, nessuno investe e la recessione rischia di tornare. L'uscita dall'euro della Grecia è un colpo che l'Europa potrebbe assorbire e ha messo nel conto, soprattutto la Germania, oppure no? Ma economicamente forse sì, nel senso che oramai di fronte a una possibile uscita di quello che è il 3-4% del PIL dell'Europa, abbiamo la politica monetaria, abbiamo il fondo salva stati, abbiamo l'unione bancaria. Politicamente sarebbe problematico, perché l'uscita di un paese vorrebbe dire che il progetto di unificazione monetaria non è stato in grado di aiutare la crescita, la nascita dell'Europa, la nascita di un'Europa più unita, diciamo, politicamente. Insomma, bisogna vedere se gli altri 18 insieme dicono vabbè, uno è uscito, però noi dobbiamo andare avanti e serrare le file e fare dei passi ulteriori verso l'unione politica. Oppure se dicono è uscito uno, rischiano di uscirne altri e allentiamo a questo punto il processo di integrazione. Senta, ma un'ultimissima cosa, il pericolo che la possibilità, diciamo, che la Grecia muoia di austerità non è anche l'altra faccia della medaglia? Ma questo sta un po' ai greci, perché oggettivamente credo che gli europei riconoscono tutto questo, però l'unico modo per la Grecia di riprendere a crescere è di diventare un'economia moderna, che i greci paghino le tasse, che liberalizzino, producano un po' di concorrenza nell'economia. Tra l'altro, lo stesso Tsipras ha annunciato, per cui non c'è questa divergenza, però il tempo passa e bisogna fare l'azione. Ma il suo morire di austerità nel 2013 è il titolo del suo libro, è ancora valido, però è ancora valido, perché poi alla fine se non si fanno queste riforme rimane solo l'austerità, e forse di quello alla fine si rischia effettivamente di morire. Però Savona non ha tutti i torti. Savona, allora, non ha torti, nel senso, se le altre politiche falliscono, allora rimane l'austerità che ci uccide, però le altre politiche non devono fallire. Ci sono, certo. Le dobbiamo ricercare, dobbiamo attuarle anche in Grecia. Mario, sì. Senti, Anna ci chede esattamente quantitative easing, che cosa vuol dire? Qual è la traduzione esatta? La traduzione letterale, potremmo tradurla così, con allentamento quantitativo, facilitazione quantitativa. Di fatto è un termine anglosassone inglese che viene usato per definire una politica, una misura straordinaria per una, diciamo così, un'azione ultra espansiva della moneta. Max da Bergamo ci scrive una cosa divertente. Ma se è vero che il rischio rimane alle banche centrali dei singoli paesi, è così o no? Sì. Sì. Sì, ma perché la BCE non dà soldi, questo lo chiede Paolo, non dà soldi direttamente ai cittadini? Perché intanto poi lo riporterebbero nelle banche. Perché non lo può fare, perché non è il suo mestiere. Non quello. È il suo mestiere. No, è il regolatore del sistema bancario europeo. Quindi non si può fare. No. Pietrangelo? Non si può fare. Tanto le banche non danno niente. Fanno come vogliono. Non è proprio così. Come non è proprio così? Da Roma in giù non c'è un solo mutuo. Allora. sempre per il rispetto della verità, c'è stato un fortissimo credit crunch durante la crisi finanziaria, è durato moltissimi anni. I primi tre gruppi bancari, anzi, i primi cinque gruppi bancari italiani avevano praticamente stretto il credito in misura molto grave. Sì. È stato denunciato più volte dagli stessi governatori di Banca Italia questo problema, in varie relazioni, dallo stesso Draghi. Hanno ricominciato a dare un po' di credito, è sempre molto insufficiente. Vabbè, me ne danno una montagna di soldi. È anche vero che le regole di Basilea, delle varie Basilee e così via, hanno stretto i cosiddetti ratios, quindi le banche sono veramente strette in regole difficili. Insomma, le banche ricevono soldi e non li danno. Sarà che frequentiamo persone diverse, io non ho mai incontrato uno che abbia ricevuto credito da una banca. No, quelli solidi ricevono credito. Vabbè, e qui non siamo soldi 800 24. Il problema è che non c'è propensione al rischio da parte un po' delle banche. Sì. Ecco appunto 800 24 0024, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Quindi lei propone che, a dispetto della dimostrabile infedeltà di cui si è macchiato, la sua incolpevole moglie sia cacciata via su due piedi? È possibile? È una sfida. Si tratta della mia vita, è chiaro, e dei miei soldi. Va bene, mi trovo un posto qua vicino così posso vedere i ragazzi. Dobbiamo inchiodarlo, Bill. Dobbiamo massacrarlo. Spazzarlo via dalla faccia della terra. Hai guadagnato più tu a conoscere me che io a conoscere te. Guarda, sono io che ho trovato questa casa. Io che ho comprato tutto. Sì, con i miei soldi. Comunque, sull'annuncio c'era 650 euro, vero? So, tre mesi anticipati, 1950, più il mese in corso, 2006. Questo mese mi hai dato i soldi in ritardo. Io faccio i salti mortali, c'ho il doppio lavoro. Ma non mi basta, non basta mai. Ci vorrebbe il terzo, il quarto. Ma quello è un santo, è pulito. È un santo con un ottimo avvocato, tutto qua. Non lo sai che ci si può dormire in macchina? Ho avuto dei problemi a casa, ho litigato con mia moglie, mi sono solo appoggiato un attimo. Ti fa come ti pare, basta che te ne vai. Oh, hai un consiglio, tornatene a casa, pure se non vi parlate. Il divorzio è per quelli ricchi. Anna Maria Bernardini De Pace, avvocato di oltre 25.000 cause di separazione e divorzio, ormai un simbolo del diritto di famiglia italiano. Avvocato Bernardini De Pace, per anni lei è stata paladina delle donne nelle cause di separazione, era una tradizione, un retaggio femminista? No, io sono paladina sempre di chiunque sia vittima. Ah. Quando io ho cominciato la mia professione, le donne erano veramente vittime della società, dei mariti, di un sistema e tutto sommato anche della legge, che era interpretata dai giudici secondo canoni molto maschili. Ecco, in una recente intervista a Panorama, lei però ha detto che oggi le vere vittime del divorzio sono gli uomini. Perché? Questo è vero. Perché? Questo è vero perché le donne si sono svegliate troppo, le nuove generazioni di trentenne e quarantenne si sono trovate tutti i diritti per i quali noi più grandi abbiamo combattuto, se li sono trovati a portata di mano. La parità l'hanno interpretata in termini di aggressività, conquista, avidità, e quindi spesso i matrimoni, molto spesso, non sono d'amore ma sono di calcolo. Lei infatti, avvocato Bernardini De Pace, parla di donne come di novelle medee pronte a distruggere i propri figli per un buon accordo di separazione, cioè... Anche perché spesso queste donne, questo tipo di donne, non tutte le donne, beh, perché ovvio, le donne vittime di carnefici ci sono ancora, certo, questo tipo di donne considerano i figli come fossero delle carte di credito dei mariti, tant'è vero che secondo me dovrebbero chiamarle Visa, Bank America, Diner, invece di chiamarli Giuliano, Francesco. Avvocato De Pace, lei dice che ci sarebbero le veneri, quelle definisce così, le veneri imperiali, che sono parole sue, nascondono una calcolatrice al posto dei genitali. Sì, è una provocazione. Anche un po' più volgare nel dirlo, proprio avevo dato un termine molto più diffuso, nel senso che queste donne, ai miei tempi, non esiste come ai suoi, caro Minoli, certo, il sesso era una conquista difficilissima e comunque molto arrivava. Dopo mesi e mesi, a volte anni di tentativi, oggi invece per molte donne Il sesso è il modo più immediato di conquistare un uomo, anche di selezionare gli uomini attraverso il sesso che è a disposizione, che è come fosse qualcosa di totalmente staccato dai sentimenti, dal corpo, come fosse un aggancio. Avvocato, lei sostiene anche che le donne terrorizzano gli uomini creandogli enormi problemi anche sul piano sessuale, ma in che modo? Perché queste donne che ai tempi nostri non erano così interessate al sesso, invece sono interessate al sesso, per cui molte cause di separazione hanno alla base una estrema difficoltà sessuale, problematiche sessuali che insorgono nell'uomo, perché queste donne creano ansie da prestazioni, paragoni. Gli uomini oggi si sposano sapendo che le donne hanno avuto tanti rapporti sessuali, e quindi queste donne, quando non sono contenti, dicono: ah, ma tu proprio non sei all'altezza di quello che io ho avuto l'anno scorso, due anni fa, e quello che avrò tra un poco. Vabbè, però e vale anche per gli uomini rispetto alle donne, scusi, no, avvocato. Perché gli uomini non sono, cioè gli uomini o sono beceri che stuprano, picchiano, fanno, ma non hanno tutte queste sfumature. O sono vittime, o beceri o vittime. Sì, ci sono degli uomini che sono cattivissimi, perché si può essere carnefici anche nel non dare il denaro, si può essere carnefici con la pressione psicologica, togliendo alla donna il potere, tenendola in isolamento rispetto alle parentele. Lei però parla di uomini prigionieri, di donne che raccolgono ricevute per stabilire il tenore di vita già dal viaggio di nozze. Ma i suoi clienti chi sono? Già dal viaggio di nozze, spesso anche prima. Cioè ha dei clienti speciali, lei, tutti ricchissimi? No, clienti, sono anche clienti che spesso rifiuto, perché sono donne che vengono con dei dossier talmente preparati che non c'è neanche più gusto a fare l'avvocato. Però perché, diciamo che questo tipo di clienti, diciamo, di cui si occupa, sono separazioni che sono diverse da quelli normali, però in qualche modo. Stiamo parlando di clienti di un tenore sociale molto alto, economico alto. Ecco, però perché devo dirle la verità, a parte che io ho clienti di ogni tipo sociale, anche perché faccio molte cause pro bono, ci sono però anche tra le persone che non guadagnano molto, diciamo, che sono tra le 1000 e le 2000 euro al mese, donne che cercano di ricattare, che tentano, che possono ricattare i mariti che per esempio lavorano in nero. Però ci sono, avvocato Bernardino De Pace, ci sono i dati Istat che ci descrivono un panorama in cui sono ancora le donne separate o divorziate con figli quelli che hanno maggior rischio di povertà. Vero, ha ragione, infatti io non sopporto tanto questo atteggiamento dei padri separati che vanno sotto i ponti, perché se devono andare sotto i ponti è giusto che ci vadano loro e non i loro figli o le mamme dei loro figli, magari che stanno ancora allattando. Ma infatti la maggioranza non dovevano separarsi, non dovevano neanche sposarsi. La maggioranza delle persone che si rivolgono alla Caritas, al 66%, sono donne. Sì, ma sono assolutamente d'accordo, perché oggi il problema vero è quello di separarsi, non tanto per i costi degli avvocati, quanto per raddoppiare i costi di una vita nella quale non si sta dentro neanche con lo stipendio che c'è a disposizione in due, tre o quattro persone. Però quindi, il 75% dei padri separati ancora oggi non è in regola col pagamento degli alimenti. Questo non è colpa delle donne, non credo. Bravo, esattamente questo che volevo dire. Però poi ci sono gli uomini, anche questi sono carnefici, perché ci sono molti uomini che quando stanno in casa fanno gli splendidi, danno i soldi, appunto, perché magari hanno dei redditi non dichiarati. Poi fanno le vittime in tribunale dicendo: il mio reddito è basso, si fanno comunque dare un assegno basso, perché finché non si è scoperto come si arriva ai redditi nascosti non è che il tribunale può stabilire un assegno certo. più alto, non danno neppure l'assegno fissato dal tribunale, continuano a fare la bella vita, ma fingono di essere magari addirittura anche disoccupati. Senta, avvocato Bernardini di Pace, lei ha seguito 25.000 cause di separazione e divorzio, l'abbiamo detto. Qual è la più Sì, certo. Qual è la più frequente ragione di rottura? Ha fatto la sua statistica? Allora, il punto terminale di ogni conflitto coniugale è, secondo me, ma io non sono l'Istat, però si avvicina, perché con 25.000 casi il tradimento. Il tradimento è però il punto terminale di un percorso che parte dall'incomprensione, dalla convinzione di non avere sposato la persona giusta, dalla diversità di educazione, e negli ultimi 10 anni assolutamente con un trend crescente, preoccupante, la cocaina, sia negli uomini che nelle donne. Ma anche a basso livello di reddito? Anche a basso, la cocaina pare che non costi molto, perché io ho visto impiegati, infermiere, veramente persone. Ma che in che misura incide la cocaina? Cioè cosa produce? Incide la misura, perché la cocaina, come dicono gli psichiatri e gli psicologi, slatentizza la violenza. Cioè tutti noi abbiamo una base di violenza che l'educazione ci ha consentito di governare. Quando si prende la cocaina e uno vuol sentirsi onnipotente, non ha più freni inibitori. La cocaina porta a un disordine comportamentale, ma anche a un'aggressività tale che spesso ci sono dei conflitti portati all'esasperazione che finiscono anche con violenze percosse, ma non solo da parte degli uomini, anche delle ultime generazioni di donne. Ecco, avvocato, esistono divorzi a basso tasso di conflittualità? Sì, certo. Cioè, come si fa a evitare che un divorzio si trasformi in una guerra dei Roses? Allora, si fa con l'educazione e l'intelligenza, ma soprattutto con rispetto dei figli. I divorzi sono a bassissimo tasso di conflittualità quando i coniugi sono molto genitori, entrambi, quando capiscono che il rispetto dei figli, per i quali la separazione è comunque un trauma, certo, non anche c'è dubbio. A bassissimo tasso di conflittualità è un trauma la separazione. Certo, ragionano in modo tale da dire: continuiamo a restare genitori, non siamo più coniugi, magari ci disprezziamo per quello che abbiamo fatto da coniugi, ma teniamo insieme questa alleanza genitoriale, perché garantisce un futuro ai nostri figli. Senta, ma esiste ancora una ricetta secondo lei perché finché morte non ci separi? Madonna, sapesse come la vorrei conoscere. Non l'ha conosciuta, eh? No, non l'ho conosciuta anch'io, mi sono separata e divorziata più volte. Ma sa perché? Perché credo alla base di tutto questo ci debba essere prima di tutto la lealtà, che anche la legge prescrive, perché c'è l'obbligo di lealtà. Sì, ma non ci sarà mai una legge che tiene insieme un matrimonio. No, non è una legge, però voglio dire, questo è un principio forte, visto che è riconosciuto anche dalla legge. No, certo. Se si è leali con l'altro coniuge, allora si può portare avanti un matrimonio bene, anche rinnovando e rimodellando i rispettivi sentimenti, perché non possono restare sempre uguali. Io le posso dire che ho visto coppie che durano perché sono leali anche nel dichiararsi il tradimento, sono d'accordo, lo ritengono un fatto a sé indipendente dal matrimonio e vanno avanti nel matrimonio. Senta, è paradossale, però è così. Però prima diceva che il tradimento è la maggior causa invece della separazione. Ci vuole un livello diverso di consapevolezza, dice lei. Perché si dicono un sacco di bugie per nasconderlo, e le bugie fanno schifo a tutti, soprattutto quando sono dette alla persona con la quale condividi la maggior parte della vita, degli interessi e degli affetti. Senta, avvocato Bernardino De Pace, un'ultima cosa: sua figlia Chiara si è separata da Raul Bova, che lei ha definito indifendibile. Allora esistono ancora uomini indifendibili? Beh, certo, tanto, ma anche donne indifendibili, non solo uomini, ci sono. No, io per questo l'ho solo detto, perché mi hanno chiesto perché non ha difeso sua figlia, perché essendo lui indifendibile mia figlia si può difendere da sola. Mix 24. Insieme a te non esisto più, guardo le nuvole lassù. Cercavo in te la tenerezza che non ho, la comprensione che non so trovare in questo mondo stupido. Metropolitana andava benissimo. In metropolitana oggi è successa una cosa che a raccontarla, lo so, non ci crederete, però ho visto una scena e mi sono chiesto chissà dove se ne andavano oggi i pendolari. Avevano l'aria di quelli che partono e ognuno con un bagaglio. Qualcuno con emozione portava i tramonti di novembre, le nuvole appunto, altri invece le stelle di dicembre, e poi c'erano due signori che chiacchieravano, portavano le mattinate imperlate di gelo, quelle del quelle di gennaio, ed era gennaio fatto tutto nuovo di neve, e poi c'erano le poche cose del febbraio trascorso e venivano caricate tra i vagoni affollati di ricordi. C'erano perfino biscottini, tazze di tè, sacchetti di coriandoli, coriandoli timidi però, erano coriandoli che non sapevano muoversi. E in un vagone, Mario, in un vagone dove non c'era nessuno, c'era appunto un nessuno smarrito in una solitudine senza scampo. Le orecchie appese ai fili delle cuffie e una canzone, insieme a te non ci sto più, con l'inverno che se ne va via, tutto il restare dell'abbandono. Cercavo in te. Meglio non parlarne, va? Meraviglia. L'abbandono. Quello meglio di no. Appunto, Mario, allora, abbiamo al telefono un'amica? La tua. Preannunciamo. La preannunciamo. Camilla Conti. La preannunciamo però, sì. C'è? La preannunciamo. Perché Camilla parlerà degli orologiari. Esatto. Fagli un po' di domande, va. Pronto? Intanto buongiorno. Buongiorno, intanto grazie. Buongiorno. Dunque, giornalista, giornalista, autrice degli orologiai. Ecco, gli orologiai. Ma chi sono questi orologiai? Bazzoli, Guzzetti, Prodi? Perché orologiai? Gli orologiai li abbiamo chiamati così perché loro mettono a posto gli ingranaggi del potere, forse sono gli unici rimasti a saperli mettere a posto. Se tu parti dalla concezione del potere come un orologio da polso di lusso che non può rischiare di incepparsi, ecco, quando si apre un orologio molto prezioso bisogna anche saperci mettere le mani. Certo. E secondo me queste tre persone lo sanno fare. E quindi ovviamente come... con storie diverse, con diciamo con approcci diversi, però lo sanno fare. E comunque, come gli orologiai di classe, naturalmente hanno gestito un potere di lunga durata, ma costruito su cosa? Allora, innanzitutto un potere di lunga durata che va avanti da 40 anni e continua ancora adesso, perché Bazzoli è ancora presidente di Intesa San Paolo, Guzzetti è il presidente dell'Associazione delle Fondazioni Bancarie e Prodi, diciamo che non è più sulla ribalta politica, Prodi, esatto. E comunque c'è, Prodi c'è. E poi aggiungiamo diciamo un quarto orologiaio che è arrivato da poco, pur anche lui, essendo anche lui di lunga durata, che è Mattarella, il Presidente della Repubblica, e parte e nasce nello stesso mondo in cui sono nati gli altri tre. Ecco. È una storia molto lunga ma che va avanti. Il problema è che questi orologiai non sanno a chi insegnare il mestiere, cioè forse non riescono a trovare degli eredi giusti. Che perché Renzi non è un erede giusto? Allora, Renzi ha un background simile per certi versi, però è completamente diverso come approccio. Beh, ci sono 40 anni di diverse differenze. Sì, c'è un problema generazionale sicuramente. Renzi, l'approccio alla finanza non è così abile come gli orologiai, tant'è che ha bisogno di consulenti certo, che lo aiutino, vedi Andrea Guerra, non solo lui. Quindi ha bisogno di una serie di consiglieri che lo guidino lungo la strada dell'economia e della finanza. E forse è quello l'aspetto che più gli manca, secondo me. Quindi come orologiaio moderno lo vedo sul fronte della politica, sì, anche se poi come vedi alla fine sul fronte delle relazioni internazionali ha poi bisogno anche di una mano, vedi il ruolo di Prodi anche sul discorso della Libia, insomma, forse apprendista orologiaio. Va bene. Grazie, auguri per il libro. Grazie Salamino. A voi per l'ospitalità. Ciao Camilla. Salamino. La musica sottolinea l'atmosfera. Allora, ma la musica può cambiare. Ma prima che cambi la musica, una sentenza. Voi voterete a mezzogiorno, ma alle 11 la Cassazione si riunisce per decidere il mio destino. E cambia la musica. Alla Camera la legge che abolisce il Senato. Però succedono delle cose, le conseguenze. Forza Italia si spacca e 20 parlamentari, Daniela Santanchè in testa a quanto pare, sono pronti a votare a favore di Matteo Renzi, cioè scegliendo il sì, e disobbedire a Berlusconi. Ecco la musica. Stai zitta, sì o no? E no! Stai zitta, sì o no? E no! Ti metto dentro un sacco legato. Perché la questione è quella di dire sì o dire no. Allora, Matteo Renzi ovviamente vuole sì. Silvio Berlusconi ufficialmente ha detto no. E Brunetta garantisce: saremo compatti nel no. Ed è una vera e propria scissione a far capolino nel giorno più difficile per Berlusconi. Allora, il voto contrario serve al Cavaliere per garantirsi l'accordo con chi? Con... a garantirsi l'accordo con Salvini, in attesa ovviamente di stracciarlo, perché i sondaggi confermano il sorpasso della Lega. E poi lui guarda la percentuale di NCD e cantanto dice: ha davvero dei begli occhi da aquilotto il nostro amico Angiolino. E ha ragione ad avere gli occhi da aquilotto il nostro amico Angiolino. Berlusconi ha detto: guardate, all'1,6%, con questa cifra come faccio a rompere con la Lega per scegliere appunto Angiolino e i suoi occhi da aquilotto? Comunque, alle 12 la Cassazione sapremo si tutto. Riunisce. A mezzogiorno si vota. All'1, oggi domani un concorso, Matteo Renzi chiude la rottamazione e avvia la restaurazione. Si prende tutta Forza Italia e fa il partito della nazione, anche Brunetta. Anzi no, Brunetta no. Perché? Zitta sì o no? E no! Zitta sì o no? E no! Brunetta e no, dice no. Ti metto dentro un sacco legato a piede e mani e in bocca ai pesci cani ti scaraventa. Dai Mario, con la tua bolla. Ma sì, dai, parliamo un po'. Un grande classico, Aquarius, bellissimo, senti, che bello. Molto. Allora, Angela Merkel è in Giappone. È un viaggio molto importante, tutti vanno a est, come avete visto. Renzi va in Russia, la Merkel va in Giappone, prima c'era stato Hollande, insomma. E ricorrono tra l'altro i 70 anni della guerra tra Cina e sino-giapponese, no? E potete immaginare quanto sia grande il dibattito da quelle parti, lì sono ferite ancora aperte. E la cancelliera Merkel a Tokyo ha detto che ha consigliato a tutti di fare come la Germania, diciamo, con il Terzo Reich, cioè di chiedere scusa, di prendere atto di quello che è successo. Mica facile. Anche perché Shinzo Abe in realtà sta cambiando la Costituzione per riarmare il Giappone. La Cina, vedevo adesso, ha ordinato una, sta costruendo una seconda portaerei. Fare come la Germania dunque? E però poi, sai, c'è una scuola di pensiero che dice che la Germania sta conducendo una terza guerra. Guerra mondiale, che è una guerra, che è una si dice guerra con facilità. Economica, dicono tutti. Oggi vedremo, tra l'altro, per mettere in un filo logico tutto, cosa succede, guarda caso, con la Grecia, che in fondo è terra di cultura dell'Europa. Mix 24. Sara, tocca a te. In Giappone c'è un bisogno disperato di tanti coccoli, tanto che a Tokyo sta spopolando un locale dove si pratica il co-sleeping, cioè si dorme insieme. Chi si sente solo trova una persona con cui dormire e può scegliere tutto: posizione a cucchiaio, addormentarsi sul suo grembo, il tipo di pigiama. Tanti coccoli! Per 10 ore di sonno si pagano 380 euro. Grazie. Un nuovo business che secondo me arriverà anche in Europa. Ma sbaglio a credere che non ci possa essere un prezzo per ogni cosa? Ha ragione, non ci può essere. Vai con la bolla. Va bene. Don't you forget about me. Ah, i Simple Minds, questo pezzo storico. Senti. Forget about me. Allora, 47 senatori repubblicani. Senti qua, Pietrangelo, non distrarti. 47 senatori repubblicani dicono che l'accordo tra Obama e l'ayatollah iraniani. No, sì, com'è? Vabbè, come lei. Non vale niente. Dai. Non vale niente. Che quindi il prossimo presidente lo straccerà come un executive order qualsiasi. Hai visto, Pietrangelo, cosa sta succedendo? Cosa ne pensi? Sai, c'è sempre una guerra definitiva tra gli Stati Uniti d'America e la Persia. C'è un odio irrinunciabile nei confronti della Persia, da sempre. Ed è una vicenda su cui poi il prezzo lo paghiamo soprattutto noi europei. Vedremo cosa succede. Interessante. Vedremo, molto, molto interessante. Salamino! Salamini televisivi, cercasi uomo forte al comando per la RAI. Renzi tira dritto e porta a compimento il progetto per un amministratore che decida saltando i poteri di veto. Pare che siano alla ricerca di un intellettuale manager. E siccome scade l'attuale consiglio di amministrazione, il tempo stringe, il plenipotenziario urge e lì si stanno spremendo le meningi, anzi solo lui, Matteo Renzi, si spreme le meningi nel cercare qualcuno che possa finalmente essere l'uomo solo al comando nella RAI. Non si dica, a maggior ragione per quel che mi riguarda, me lo consentirete, che io abbia pregiudizi nei confronti del Premier. No, vorrei essere d'aiuto e farmi aiutare da voi nel cercare chi possa essere questo uomo al comando, no? Quindi nel delineare già un identikit. Pensavo per esempio che Oscar Farinetti, il patron di Italy, potrebbe essere benissimo l'uomo solo al comando della RAI, ma anche Denis Verdini, che dopo tutto si sta stancando lì con le vicende di Forza Italia. È diventato renziano. Si stanca sulle vicende di Forza Italia, si vuole un'apertura verso gli altri, no? Ad Agrigento hanno fatto le primarie insieme, vuoi che non vadano in RAI? Allora poi ci sarebbe anche Daria Bignardi, che così si libera dall'incomodo delle invasioni barbariche. Un personaggio fondamentale potrebbe essere Federica Mogherini, tanto per quello che deve fare in Europa può restare a Saxa Rubra, no? O no, anzi, no, a Viale Mazzini la sede. Poi ci sarebbe anche il papà di Maria Elena Boschi, perché potrebbe essere una figura fondamentale di garanzia. Deve essere un intellettuale, quindi Carlo Freccero. Ma voi due avete qualche nome forse da proporre? Zero. Io non posso parlare. Zero. Io neppure. Io non posso parlare. Ecco, io potrei proporre te. Anche io. Butta fuoco. Butta fuoco col presidente. Sì. Facciamo la candidatura. Avete raggelato, però intellettuale non lo sono. Manager meno che mai. Lì un aiutino lo troverai. Va bene. Senti, Marina, oggi con la seconda puntata sulla storia dell'economia del mondo, cosa ci racconti? Oggi riprendiamo da dove ci siamo interrotti ieri, e cioè subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Facciamo un breve passaggio nell'India di Pandit Nehru, che lo vedremo adotta un sistema di pianificazione economica, per dedicarci poi ai due campioni del liberismo anglosassone, Ronald Reagan e Margaret Thatcher, che devono gestire la prima crisi globale dopo 20 anni di crescita economica. A tra poco. Bene, prima della pubblicità, Soli di Adriano Celentano. È inutile suonare qui, non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi calcio alla